Nel ventunesimo secolo non vi è tema più sentito dell'unità dei cristiani. Ormai tutti, soprattutto gli increduli, sono stanchi di vedere coloro che si dichiarano seguaci di Cristo combattere gli uni contro gli altri, esenti dal sopportarsi e carichi d'odio reciproco. Se gli uomini increduli sentono un disperato bisogno di unità e di pace, e vorrebbero che almeno chi predica l'amore e il porgere l'altra guancia fosse coerente alle parole proclamate con tanto ardore, quanto più chi dice di essere discepolo di Cristo desidera ardentemente l'unità dei cristiani. Purtroppo, questa ricerca iniziata il secolo scorso è piena di ostacoli apparentemente del tutto insormontabili. Da un lato, è lodevole questa difficoltà nell'essere uniti perché ogni denominazione cristiana dimostra di essere fedele al proprio credo. Diversamente, tanto varrebbe essere musulmani, induisti o altro. Dall'altro, è veramente pietoso e scandaloso che coloro che si definiscono cristiani non siano in grado di trovare un accordo tanto sospirato e ricercato. Cosa dire? Non si può condannare nessuno, perché tutti agiscono per amore di Cristo e per la verità, come del resto non si può giustificare nessuno, perché l'importante è amarsi gli uni e gli altri, atteggiamento questo, che dimostrerebbe a tutti l'identità di discepoli di Cristo. Sembra che non vi sia soluzione. Il movimento dell'ecumenismo meno, che da anni opera all'interno delle varie denominazioni meno, cerca proprio questa soluzione, e se anche un giorno la trovasse, sarebbero più guai che gioie. Infatti tale movimento ha lo scopo di unire le varie confessioni di fede, e quando si ha uno scopo del genere spesse volte si calpestano altre verità. Infatti per l'ecumenismo non importa molto la fede che si professa, l'importante è essere uniti. Per questo si cerca di vedere e rivedere i propri credi, e di trovare un punto di accordo limando un poco certe verità. Così si arriva a dire che musulmani e cristiani credono nello stesso Dio, come calvinisti, battisti, pentecostali e chiese dei fratelli, alla fine possono trovare un punto di accordo che permette loro di non essere più divisi. Ma è possibile raggiungere tale obiettivo? Sembra proprio impossibile, perché se tante patate differenti non vogliono essere diverse come forma, l'unica soluzione è diventare un purè. Ma un purè non sono più tante patate diverse, ognuna ha perso la sua propria caratteristica. È possibile, nel ventunesimo secolo, perdere eredità spirituali, anche millenarie, per essere uniti con altri cristiani? Grazie a Dio, sì. Dobbiamo dirlo subito. L'unità dei cristiani è possibile solo se quelli che si definiscono cristiani predicano un unico Vangelo. Il punto è questo: se ogni confessione religiosa di matrice cristiana continua a rimanere ferma nelle proprie confessioni di fede, non si arriverà mai ad una unità. Non è possibile. Con questo non si vuole intendere che non si debbano avere delle confessioni di fede, che si debba rinunciare subito a dottrine bibliche, ma per forza di cose occorre per il momento mettere da una parte le proprie convinzioni per considerare seriamente il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. Sembra un punto di vista sempliciotto e vecchio quanto il mondo, ma se il Vangelo della Chiesa nascente ha unito i cristiani di ogni cultura e nazione, non può lo stesso Evangelo unire tutti i cristiani di oggi? Certo, l'Evangelo è potente a farlo. Essendo tale, è nostro dovere permettere al messaggio di Dio di unire tutti i cristiani. Ma cosa del Vangelo ha precisamente unito i primi cristiani nell'era apostolica? La nascita di Gesù da Maria Vergine? Non precisamente questo. Forse il messaggio di amore di Gesù, neppure questo. Ha unito forse i cristiani il fatto che Gesù è morto in croce ed è risorto? Anche se in parte è vero, non sono neppure questi due eventi ad aver permesso che i primi cristiani fossero uniti. Certo, i credenti della nascente Chiesa credevano nella nascita virginale di Maria, nel messaggio di amore di Cristo e nella sua morte e resurrezione, ma di fatto non era il loro credo ad unirli. Come oggi, una confessione di fede non unisce nessuno, può unire teologicamente delle persone. Ma se questa è la ragione dell'unità dei cristiani, l'opera di Cristo è molto limitata. Bastava che avesse detto di credere in un credo e tutto era a posto. Un po' come per gli ebrei. Bastava loro confessare di credere nella legge per essere a posto. Ma quanti ebrei credevano nella legge, pur non essendo dei veri credenti, come oggi? Quanti hanno fede in un credo, professano la propria religione, e tuttavia sono lontani da Dio come il Levante dal Ponente. Il Vangelo di Cristo consiste proprio nell'invitare le persone a rimanere ferme in un credo. È qualcosa di molto più profondo, che deve essere preso in seria considerazione, e si trova proprio nella sostanza del vero messaggio di Dio, quel messaggio capace di unire le persone di varie confessioni. Definire in poche parole in che cosa consiste il vero messaggio dell'Evangelo sembra una impresa ardua, impresa la cui difficoltà è messa in evidenza dalle tante definizioni che ne danno le confessioni cristiane. A mio avviso, accordarsi su un'unica esposizione del Vangelo di Cristo è faticoso, perché ciascuno parte da certi presupposti teologici, ma se si riesce a dare uno sguardo generale a tutto il messaggio di Dio, dal libro della Genesi all'Apocalisse, non ci si sbaglia nel dire che la lettera d'amore volontariamente trasmessaci dal Dio Trino dichiara che, mediante la morte di Gesù e la sua resurrezione, sono già perdonati tutti i peccati a tutti gli uomini. Questo è il grande messaggio del Vangelo in grado di unire tutti i credenti in Cristo, anche perché tutti sono d'accordo che Gesù è morto in croce non per uno sbaglio o perché voleva fare il martire. L'Apostolo Paolo riunisce mirabilmente il messaggio del Vangelo in questo modo. Siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. 2 Corinzi 5.1-4-19. La conclusione di Paolo era ed è che Dio, tramite l'opera di Cristo, non addebita più agli uomini i loro falli. Questo è un discorso che alla fin fine può sembrare non nuovo e di fatto non lo è. Ma a sorprendere è che, se preso alla lettera, questo messaggio rivoluziona la vita religiosa di chi si professa credente in Cristo. Per quanto mi riguarda, ho impiegato molti anni a comprendere la verità più profonda del Vangelo, anche se per anni ho predicato un Vangelo risultante molto efficace, tanto nella mia stessa vita quanto in quella di altre persone. Però aver afferrato che i peccati di tutti gli uomini sono stati interamente perdonati aiuta moltissimo a comprendere come sia possibile arrivare all'unità dei cristiani. Se i credenti in Cristo credessero a questo perdono divino universale offerto a tutti gli esseri umani, si troverebbero uniti per prendere il pane e il vino, non in virtù di un credo unico e neppure in quanto appartenenti ad una religione, ma perché sono tutti perdonati alla stessa maniera. Infatti, il cattolico non cercherebbe più compiere delle opere per ottenere il totale perdono di Dio. Il calvinista non si sentirebbe un eletto, diverso dagli altri, considererebbe l'amore di Dio non più selettivo, ma universalmente uguale per tutti. Il carismatico non metterebbe più enfasi sul battesimo nello Spirito, perché il perdono di Dio non ha a che fare con l'effusione dello Spirito. Conseguentemente, gli altri gruppi religiosi sentirebbero il bisogno di unirsi a chi ha ricevuto per grazia il perdono totale di Dio e, uniti, tutti ringrazierebbero il Dio Trino perché, già perdonati di tutti i loro peccati, potrebbero vivere ogni istante della loro esistenza. Questo è il grande e meraviglioso messaggio del Vangelo, in grado di rivoluzionare positivamente ogni espressione religiosa e anche la società. Così, il tanto anelato raduno dei credenti in Cristo per dimostrare la propria unità posta sotto lo stesso ombrello del perdono, un perdono che deve essere considerato totale e universale, è concretamente realizzabile. Ripeto, il cattolico non chiederebbe più perdono nelle sue funzioni religiose, non avrebbe più una impalcatura religiosa composta da sacerdoti, cardinali e papa, perché, essendo già tutto compiuto, al credente non resta altro che un culto di lode e ringraziamento. Il calvinista ringrazierebbe Dio perché l'opera di salvezza è per tutti gli uomini onorando, in questo modo, Gesù Cristo meno, e vedrebbe tutti gli uomini uguali a sé. Il discorso della predestinazione, secondo il suo presupposto, non avrebbe più senso, acquistando, tuttavia, significato se inserito nel piano di Dio, in relazione a chi è già credente. Così pure i carismatici e gli altri gruppi religiosi lascerebbero alcune enfasi su certe dottrine, perché presa coscienza del perdono totale di Dio, non vedrebbero l'ora di esprimere la loro gioia e riconoscenza unendosi agli altri. Certo, un incontro del genere non mette a posto automaticamente ogni cosa, non è un incontro magicamente taumaturgico, ma ha il potere di far prendere coscienza ai salvati per grazia, mediante la fede che sono giù uniti nel perdono di Dio, e così nell'unità predicherebbero al mondo un solo Vangelo, l'assenza del quale, in definitiva, costituisce la vera ragione della mancanza d'unità fra i cristiani. Secondo la scrittura verrà un tempo, meno non molto lontano, che gli uomini saranno uniti sotto a un'unica malvagia potenza spirituale e, se i credenti che sono nati di nuovo non anticipano questo periodo, esprimendo tangibilmente la loro unione già avvenuta in Cristo, avranno un'esistenza ancora più difficile. La fede comune spesso si isola e non vuole essere disturbata, ma l'amore di Cristo e per Cristo non si lascia inghiottire dal collettivo e non lascia indifferente chi ha realizzato e realizza ogni giorno il perdono di Dio, il quale per questo, a costo di essere considerato uno scocciatore, predica l'unico e vero Vangelo instancabilmente. Che Dio continui a preservare la sua Chiesa, quella vera, già unita, in Cristo. Febbraio 2009. Ellero.